Vi ho promesso che nei prossimi giorni Bante verrà a fare il discorso, ma per oggi sono di nuovo io. So, just to connect to what we were talking about, the last things we were talking about yesterday. So, there's this verse from the Dhammapada. I don't remember exactly what the number is, but it goes like this. Per riconnetterci a quello di cui stavamo parlando ieri, ci sono queste parole dal Dhammapada, non ricordo esattamente il versetto, ma fanno così, dicono questo. So it says very simply, abandon what is unwholesome, cultivate what is wholesome, purify the mind. Abbandona. That is the teaching of all the Buddhas. Abbandonate ciò che non è salutare, coltivate ciò che è salutare, purificate la mente, questo è l'insegnamento di tutti i Buddha. So, in a way, what we were saying at the end of the talk yesterday. In un certo senso quello che stavamo vedendo alla fine del discorso di ieri sera. It encapsulates the practice. Incapsula la pratica. So, yesterday we talked about a group of unwholesome mental states, the hindrances. Ieri abbiamo parlato di un gruppo di stati mentali non salutari, gli impedimenti. And today I thought we could talk about, well, actually Bhante suggested that we could talk about a group of wholesome mental factors. E oggi Bhante ha suggerito che parlassimo di un gruppo di fattori mentali salutari. So there are several such groups in the Buddha's organization of mental states. So there are the controlling faculties and the idipadas, and there are several such groups. Quindi, but the group that I'll talk about today are the seven factors of enlightenment. Quindi ci sono vari gruppi di questo tipo nell'organizzazione degli stati mentali del Buddha, ma quello di cui parlerò oggi sono i sette fattori dell'illuminazione. So, what are they? I'll just briefly list them for you. This is probably the most important grouping of the wholesome mental factors. Ed è probabilmente il raggruppamento più importante dei fattori, tra i vari fattori mentali. So, they are in order of development. Mindfulness. Quindi in ordine di sviluppo sono mindfulness o presenza mentale. Investigation of the Dhamma. L'investigazione del Dhamma. Energy or effort. Energia o sforzo. Joy. Gioia. Calm. Calma. Concentration. Concentrazione. And finally equanimity. E infine equanimità. Again? Yes? So they are. Anyway, I go through them one by one. But they are mindfulness. Quindi mindfulness, presenza mentale. Investigation of the Dhamma. L'investigazione del Dhamma. Effort or energy. Sforzo o energia. Joy. Gioia. Calm. Calma. Concentration. Concentrazione. And equanimity. Ed equanimità. Okay. Now, we experience these states to some degree right from the beginning of our practice. In certa misura facciamo esperienza di questi stati fin dall'inizio della pratica. But they are not in these early stages as yet factors of enlightenment. Ma in questi a questi stadi precoci non sono ancora dei fattori di illuminazione. So it is only when they reach a maturity, when they are developed to their fullness, that they become true factors of enlightenment. Solo quando raggiungono la maturità e sono sviluppati a pieno, diventano veri fattori di illuminazione. With the power to really transform and purify and finally liberate the mind. Con il potere di trasformare, purificare e infine liberare la mente. So, let's look at them in order. And I hope I can say everything without saying too much. There's a lot to talk about. Quindi vediamoli in ordine, spero di dire abbastanza senza dire troppo, perché ci sono molte cose da dire. So, we'll begin with the base of everything. And that is mindfulness. Okay? It is at the heart of our practice. Mindfulness o presenza mentale è la base di tutto, al cuore della pratica. Now, often think of it as awareness or presence of mind, our ways of thinking about mindfulness. And so a certain degree of awareness we have all the time. E quindi ne parliamo spesso in termini di consapevolezza o presenza mentale, e un certo grado di consapevolezza noi l'abbiamo sempre. But it's very, very superficial. Ma è molto superficiale. So if you think about how we experience the world habitually, the moment a sense impression arrives, the mind immediately forms a perception of it. Se pensate a come percepiamo il mondo normalmente, nel momento in cui un'impressione sensoriale sorge, la mente immediatamente se ne forma un'immagine. Una percezione. And that perception is usually a concept, an image or an idea, something that overlies the actual experience. Una percezione che è di solito un concetto o un'idea che si sovrappone alla vera esperienza. So our actual experience, our actual awareness of the experience itself is very, very cursory. E quindi la nostra vera esperienza, vera percezione dell'esperienza in sé è molto molto rapida, insomma, fluttuante. Yes, superficial. Superficiale, yeah? Dura, yeah, pochissimo. So the mind tends to say, ok, I know what that is, and then immediately it goes to something else. La mente tende a dire, ok, so che cos'è questo, e passa subito ad altro. Ok, so the mindfulness that we are cultivating here is a totally other kind of mindfulness. Mentre la mindfulness che coltiviamo qui è di un genere completamente diverso. So the characteristic of mindfulness, as described in the texts, is one of not wobbling, not slipping away from the object. Nei testi si descrive la mindfulness come con la caratteristica del non essere traballante, ecco, non e non scivola via dall'oggetto. So it keeps the object in view. It stays connected to the object. Mantiene l'oggetto in vista e vi rimane collegata. Okay, and also it is a very receptive state. È uno stato anche molto ricettivo. So it allows the experience into itself. Permette che l'esperienza entri dentro di sé. So it allows the experience into itself, and it itself penetrates into the experience. Quindi accoglie l'esperienza in sé e anche penetra nell'esperienza. So it is the the opposite of superficiality. Non superficiality. Quindi è l'opposto della superficialità, è la non superficialità. So we have this image in the text. There is a hollow pumpkin, a dry hollow pumpkin, and this bobs on the surface of the water. Nei testi abbiamo questa immagine di una zucca seccata e vuota che galleggia, ballonzola sull'acqua. So this is not the mindfulness that we want. Yeah? E questa non è la mindfulness che cerchiamo. But really it's like a stone that sinks to the bottom. È piuttosto come una pietra che scende fino al fondo. Okay, so mindfulness is like that stone. It sinks into the experience. La mindfulness è come quella pietra, affonda nell'esperienza. Okay. So that's the first thing. And to help with that, it helps a lot to relax into mindfulness rather than straining into it. È molto utile rilassarsi nella mindfulness piuttosto che entrarci a fatica, a forza. It's a very natural state to be aware. You can just relax into experience. Quindi essere trying to force something. Essere consapevoli è uno stato naturale, quindi rilassiamoci nell'esperienza, non cerchiamo di forzare. Di forzare, sì. So this is one aspect of mindfulness. Questo è un aspetto della mindfulness. Mindfulness is also like a mirror. Ma la mindfulness è anche come uno specchio. So it simply reflects what is there. Riflette ciò che c'è. So it doesn't add anything, it doesn't subtract anything, it doesn't seek to manipulate anything. Non aggiunge niente, non sottrae niente e non cerca di manipolare nulla. It doesn't take sides for or against experience. non si schiera né contro né a favore dell'esperienza. So it is itself an entirely wholesome state. Quindi è in sé uno stato completamente salutare. Bhante-Sujiva says that mindfulness has three fundamental qualities. Bhante-Sujiva dice che la mindfulness ha tre qualità fondamentali. He says the qualities are peacefulness, softness and clarity. Quindi un carattere di pace, pacificità, morbidezza e chiarezza. So why peacefulness, softness and clarity? Perché queste tre qualità? So, peacefulness non-desiring. È pacifica perché non c'è desiderio, non desidera. Non-greed. Non c'è avidità. Soft, because receptive, non-aversive. È morbida perché è ricettiva, non è avversiva. And clear, because not deluded. È chiara perché non è confusa, non è illusa. So it's rooted in the three, in the opposite of the three unwholesome roots, right? It's rooted in non-greed, non-hatred and non-delusion. Quindi è radicata nell'opposto delle tre radici negative. Negative, yes. Quindi è non avidità, non attaccamento, non avversione e non confusione o illusione. Okay, so this is another thing to keep in mind. And finally, it's very important to try to construct a sequence of moments of mindfulness, to create a continuity of mindfulness. È molto importante, per finire, costruire una sequenza di momenti di mindfulness, creare una continuità di mindfulness. So this is important for this reason. Ed è importante per questa ragione. Because if there are, and also to know that it's a very high ideal. It's a very high ideal to have a continuity of mindfulness. Bisogna anche riconoscere che è un ideale molto elevato quello di avere una continuità di mindfulness. Okay, actually there are lots of gaps. Okay. Nella realtà ci sono molti vuoti, molti momenti di non mindfulness. Okay. When you recognize the gap, just become mindful again. Yeah? E quando riconoscete che non c'è stata mindfulness, tornate a essere consapevoli. So the idea is that you try to connect the dots. Yeah? You try to fill in the spaces, but you do it in a gentle, relaxed way. Quindi l'idea di collegare i punti e quindi riempire gli spazi vuoti, ma farlo in maniera gentile. And so you might see that there are certain moments in the day when really I'm not mindful. Then you bring a kind of awareness there. E quindi potrete notare che ci sono momenti della giornata in cui non avete mindfulness, e allora portate lì la consapevolezza. And also you don't always have to be observing with the same degree of intensity. Ma anche non è necessario osservare sempre con lo stesso grado di intensità. So you can reserve the intensity for the sitting, for the formal practice, right? When you're sitting, when you're walking, really going slow, really, really investigating, really looking closely. Potete riservare l'intensità per i momenti delle sedute, oppure quando fate la camminata, e or quei momenti. Maybe when we're having meals. O durante i pasti, in quel momento osservare molto a fondo. But in the rest of the time you are trying to connect. You are trying to stay connected. So maybe you are not observing with the same degree of detail. Nel resto del periodo cercate di rimanere connessi e quindi forse non osservate con la stessa maniera così dettagliata. But there's a continuity. So you know after the sitting there's I'm getting up. So you use the noting to help you, right? And then stepping, stepping, stepping, stepping, opening. stepping. Mm-hmm. So you keep a continuity. Mm-hmm. You try to fill in the gaps, connect the dots. Mm-hmm. Però l'idea è di mantenere una continuità, quindi dopo la seduta ci si alza e camminare, aprire la porta, e quindi si cerca di unire i punti, di non lasciare degli spazi vuoti tra un momento di mindfulness e l'altro. Mm-hmm. So this connectivity, it's important for this reason. Di collegare. It's important because if there are big gaps in the mindfulness, then that gives opportunity for the latent defilements to arise again in the stream of consciousness. Questa continuità è importante perché se ci sono dei grossi spazi vuoti nella mindfulness, questo dà l'opportunità agli inquinanti di sorgere. And then if there are big gaps, they really again take hold in the mind. Mm? E se questi gap sono grandi, si impadroniscono della mente. And so all the wholesome qualities that you're developing weaken again. And you have to start from scratch. E le qualità salutari che state sviluppando si indeboliscono e dovete ricominciare da capo. So it's really a kind of protection. Yeah? It's really a kind of protecting your own practice. Mm? Quindi si tratta in realtà di proteggere la vostra pratica. Okay, so the mindfulness is even said to have this function of guardianship. Yeah, it's watching over your mind. Quindi possiamo dire che la mindfulness ha questa funzione di sorveglianza della vostra mente. So defilements will naturally arise, but if there is enough continuity, then the mindfulness is soon enough aware. Gli inquinanti sorgeranno in maniera naturale, ma se c'è continuità, la mindfulness ne sarà presto consapevole. Okay, so the continuity is important. Quindi la continuità è importante. So much for mindfulness. There's a lot more to be said about it. But questo basta per ora sulla mindfulness, anche se c'è molto altro da dire. So there's a book by a Burmese teacher, Tama book, Utejaniya, called Mindfulness Alone is Not Enough, or Awareness Alone is Not Enough. E c'è un libro di un insegnante birmano, Utejaniya, chiamato Mindfulness da sola non è abbastanza, o la consapevolezza da sola non è abbastanza. So, we're not developing mindfulness as an end in itself. Quindi non la sviluppiamo come un fine in sé. Okay, but we are directing the mind to the unfolding mind-body processes that are occurring moment to moment. Ma dirigiamo la mente verso i processi fisico-mentali che si svolgono momento per momento. So this is the second of the enlightenment factors, and that is the enlightenment factor of Dhamma investigation. E questo è il secondo dei fattori di illuminazione, ed è l'investigazione del Dhamma. So we're investigating what is happening, mind-body processes as they are occurring in the present moment. Investighiamo i processi mente-corpo mentre avvengono nel momento presente. And as Bhante said, with that curiosity, what is this? What is happening here? Con un carattere di curiosità, cos'è questo? Cosa sta succedendo? So our investigation moves from the specific to the general. I explain. La nostra indagine si muove, passa dallo specifico al generale. So we're interested in seeing what the specific characteristics of formations are. Quindi ci interessa vedere quali sono le specifiche caratteristiche delle formazioni. Sì. So, for example, let's take a pain. A pain is just an idea, it's just a concept. Prendiamo un dolore. Un dolore è un'idea, un concetto. So, it's actually a composite object. It's a composite object. It's composed of a certain unpleasantness of feeling. Quindi è un oggetto composto, è composto di una certa spiacevolezza di sensazioni. It's composed of physical sensations. Composto di sensazioni fisiche. Okay. And mental reactivity, mental reactions. E di reazioni mentali. Oh, it's like a together of this. It's like a all together. Mm-hmm. E tutto questo è un insieme. So, as Bhante says, what we are doing is we are deconstructing our experience of the world. E Bhante dice ciò che bisogna fare è decostruire la nostra esperienza del mondo. So we are separating out the strands of this tangle. Separiamo i vari filoni di questo intreccio. So we are seeing unpleasant feelings as unpleasant feelings. Quindi vediamo le percezioni spiacevoli come tali. We are seeing not wanting, aversion, irritability, anger, frustration in the mind as mental reaction. E vediamo il non volere, l'irritazione, la frustrazione nella mente, come tutte queste cose come reazioni mentali. And then we are really trying to come into contact with what is actually there. E cerchiamo di entrare veramente in contatto con ciò che c'è veramente. So what is this pain? What is this thing that I am calling pain? Cos'è questo dolore? Cos'è questo? Questa cosa che sto chiamando. Questa cosa che chiamo dolore. Right? So, it's some specific, it has some specific quality. Mm-hmm. So there's some hardness there, or some burning, or some pressure, or some tension. Quindi ha delle qualità specifiche, cioè della durezza o della pressione, del bruciore, della tensione. So the pain may manifest in different ways. It may be a kind of cutting pain or a piercing pain or a tearing pain or a burning pain or. Quindi può dare una sensazione che ci sia un taglio oppure una puntura oppure una bruciatura. So it's manifesting in a very specific way, right? So you're trying to see that clearly. And when you can really contact that clearly, beyond the label of pain, now you are really in touch with what is actually there. Quindi quando cercate di entrare in contatto con chiarezza con questo dolore, allora siete davvero in contatto appunto con ciò che c'è. Now, you come to this level of what we call the ultimate realities, right? E si arriva al livello di quella che chiamiamo la ultima realtà. What is really real? Yeah? Okay. Cos'è veramente reale? And so it's very important to begin to see the specific characteristics of formations. È importante imparare a vedere le caratteristiche specifiche delle formazioni. So not of pain, of the rising falling, as I said briefly this morning, or of mental states, how they manifest in the body, anger or sadness or restlessness. Quindi del dolore o del salire e scendere del respiro o delle formazioni stati mentali come rabbia, eccetera. So we're really wanting to see what that is, how it manifests. And then if we keep looking there carefully, then slowly the three universal characteristics start to become apparent. E okay. Se continuiamo a guardare con continuità, lentamente le tre caratteristiche universali diventano apparenti. Okay, so we really begin to see everything is really impermanent. E cominciamo a vedere che davvero tutto è impermanente. And not just conceptually, but really radically impermanent. Non è solo una cosa concettuale, ma è radicalmente impermanente. Thoughts arise, they pass away. Feelings arise, they pass away. Mental states arise, they pass away. Quindi le sensazioni, le percezioni, gli stati mentali sorgono e svaniscono. Sensations in the body arise, pass away. Le sensazioni del corpo. Sense of continuity breaks up. E il senso di continuità si interrompe. Sense of compactness starts to disintegrate. Il senso di compattezza comincia a disintegrarsi. Oh, now you're really beginning to see this, this impermanence. Allora cominciate veramente a vedere l'impermanenza. Okay, and then if you see the impermanence clearly enough, then automatically a sense of the unsatisfactoriness begins to arise. E se vedete abbastanza chiaramente l'impermanenza, comincia a sorgere il senso di insoddisfazione. Because what is there to hold here? Perché nothing to hold, nothing stable. Non c'è niente da stringere, non c'è niente di stabile. Nothing to rely on. Non c'è niente di, su cui fare affidamento. And then there's a kind of subtle anxiety underneath here, no? Because you're afraid of not getting what you want. E quindi sorge uno stato di sottile ansia perché avete paura di non ottenere ciò che volete. Or anxious about getting what you don't want. Oppure l'ansia di ottenere ciò che non si vuole. Or anxiety about losing what you have. O l'ansia di perdere ciò che si ha. How to find any stable happiness in this constant flux of phenomena? Come trovare una felicità stabile in questo flusso costante di fenomeni? So the unsatisfactoriness of existence starts to become manifest in several ways. E quindi il carattere insoddisfacente dell'esistenza comincia a manifestarsi in vari modi. And then you keep on observing in this way, and then it becomes clearer and clearer that there is no one in control here. E continuando ad osservare diventa sempre più chiaro che non c'è nessuno che abbia il controllo. There's no one in charge. Non c'è nessuno al comando. Things are arising out of conditions and ceasing with conditions. Le cose sorgono dalle condizioni e cessano con le condizioni. So there's no one guiding or governing the process. E nessuno guida o governa questo processo. Okay, so now this is not an idea of non-self, because it's a real experience, and that real experience starts to transform the mind. E quindi questa non è un concetto del non sé, è vera esperienza, e l'esperienza reale comincia a trasformare la mente. And that is the goal of our practice, this real transformation of the mind. E questo è l'obiettivo della nostra pratica, la trasformazione della mente. And it only comes about through a clear understanding of what constitutes the nature of reality. Che si raggiunge solo attraverso una chiara comprensione di ciò che costituisce la natura della realtà. So this is the investigation. This is the investigation. Quindi questa è l'investigazione, l'indagine. Okay. The third of the enlightenment factors is effort or energy. Il terzo fattore di illuminazione è lo sforzo o l'energia. So now here we often have a kind of wrong idea about, it's easy to have a wrong idea about what this effort is, yeah? È facile farsi idee sbagliate su quello che costituisce lo sforzo. So effort is not trying to make something happen or trying to make something stop happening. Lo sforzo non è cercare di far succedere qualcosa o cercare di far smettere a qualcosa di succedere. It's not about trying to achieve something. Non si tratta di raggiungere, ottenere qualcosa. So this will just wear out the mind, you'll just exhaust yourself. Perché così si stanca soltanto la mente, ci si esaurisce. So the effort, the function of effort is the function of support. La funzione dello sforzo è una funzione di supporto. It supports, what does it support? It supports the mindfulness and it sustains the investigation. Sostiene la mindfulness e l'investigazione. So the effort is the same, has the same quality as the quality of mindfulness. It's the same relaxed way of getting in touch with your experience. Quindi lo sforzo ha la stessa qualità della mindfulness, è lo stesso modo rilassato di entrare in contatto con l'esperienza. So you are, so we talk here of a kind of balanced effort. Quindi stiamo parlando di uno sforzo equilibrato. So the effort is just this. It's just bringing the mind to the object of observation. E lo sforzo è proprio questo, portare la mente all'oggetto di osservazione. So there are, so you just think, there's rising falling is going on. Per esempio, osserviamo la, il sollevarsi. So now there are three, a succession of three mental states that happen. But okay, it's not so important, just to understand the mechanism. So first you aim the object. Okay, quindi, first there's this aiming of the object. Quindi se osserviamo il sollevarsi e l'abbassarsi, prima miriamo l'oggetto. Okay. And then there's the effort that is required, but just so much effort as to bring the mind to the object of observation. Poi è richiesto lo sforzo, ma soltanto lo sforzo necessario a portare la mente all'oggetto di osservazione. And it's not a question of bashing the mind in there, right? You just bring it in gently, see what's there, right? It's just bringing it there to the object of observation. Non si tratta di sbattere la mente sull'oggetto, ma portarcela dolcemente. So you bring the mind there, that's the effort. Quello è lo sforzo, portare la mente. And then the third factor there is this, what is called the rubbing of the object. E poi il terzo fattore è quello che viene chiamato lo sfregamento dell'oggetto. So really enveloping the object, really following the object from the beginning to the end. Quindi avvolgere l'oggetto, seguirlo dall'inizio alla fine. Just being there with it, right? The rising starts, you're there at the beginning. And then something happens and you're there all the way and then it ends. And you're following all the way, and then maybe there's a pause, and then the falling, and you're there. You know how it starts, and you follow with the falling, and then it ends in a certain way. Quindi, per esempio, l'alzarsi del respiro comincia, e noi ci stiamo insieme. Poi lo seguiamo, e poi succede qualcosa, e ci rimaniamo insieme. E poi c'è lo scendere, l'abbassarsi. Il terminare del salire. Il terminare della salita, e noi siamo sempre lì. And then the same thing with the falling, right? And the mind doesn't fly off in the gaps. It remains there, right? It stays there. E quindi è poi la stessa cosa con lo scendere, e la mente non se ne va via. So you're just keeping this continuity of observation and this rubbing of the object. Si mantiene questa continuità e questo sfregamento, questa aderenza della mente sull'oggetto. Okay, so that the effort is just this, bringing the mind to the object. Okay, but if the mind wanders, well, you have to do it again. And if it wanders, you have to do it again. And maybe in a sitting, you have to do it 100 times, 1,000 times. So there is effort required here. Ma se la mente divaga, bisogna riportarla. E se divaga di nuovo, bisogna riportarla di nuovo. E qui, durante una seduta, magari succede 100 o 1,000 volte. Quindi è necessario lo sforzo. But you do it gently, right? You're not trying to tire yourself out. Yeah? Ma lo si fa con gentilezza, senza esaurirsi. So that is this. So it's a kind of persistent, gentle effort. E quindi è uno sforzo persistente e gentile. So there's this. Perhaps some of you are know this person. Joseph Goldstein is a famous Vipassana teacher in the U.S. Forse qualcuno di voi conosce Joseph Goldstein, un famoso insegnante di Vipassana negli Stati Uniti. So he gives this example. Eh? Says if you're trying to start a fire with two sticks. E fa l'esempio di cercare di accendere un fuoco con due bastoncini. So he says if you go at it violently for 30 seconds and then get exhausted and drop the sticks. And then after 5 minutes pick it up again and go violently for 30 seconds and drop the sticks, you're never going to get a fire. Quindi se li sfregate freneticamente per 30 secondi e poi vi sentite esausti e li lasciate cadere, 5 minuti dopo li riprendete e li sfregate di nuovo per altri 30 secondi, non riuscirete mai, e poi smettete di nuovo, non riuscirete mai ad accendere. So you just keep the steady rhythm, right? You just keep the steady, comfortable rhythm with the sticks and sooner or later there'll be the spark. Invece si tratta di tenere un ritmo costante con i due bastoncini e prima o poi ci sarà una scintilla. Ok, so this is... This is the effort. E questo è lo sforzo. It supports the mindfulness. Eh? Keeps you connected. Lo sforzo che sostiene la mindfulness. Okay. Perhaps we can say something here briefly about the Buddha talks about the four noble efforts. Possiamo aggiungere forse che il Buddha parla dei quattro nobili sforzi. And it just connects us back to the Dhammapada verse from the beginning of the talk. E ci riconnettiamo al verso del Dhammapada che abbiamo citato all'inizio. So the four noble efforts are just these. The first noble effort is to overcome unwholesome states that have already arisen. Il primo nobile sforzo è superare gli stati non salutari che sono già sorti. So this is the work that we are doing with the hindrances. E questo è il lavoro che facciamo con gli impedimenti. Okay. And then the second noble effort is to prevent unwholesome states that have not arisen from arising. E il secondo nobile sforzo è di impedire che gli stati mentali non salutari che non sono ancora sorti sorgano. Okay, so this is the continuity of mindfulness. All right? This is keeping the continuity, guardianship of the mind. E questa è la continuità della mindfulness, la sorveglianza della mente. Okay. The third noble effort is generating wholesome mental states that have not yet arisen. Il terzo nobile sforzo è generare degli stati mentali salutari, quegli stati mentali salutari che non sono ancora sorti. Okay, so that is this work that we are putting in, to be mindful, putting in the effort, investigating, building up our concentration. Okay, e quindi qui we're trying to raise these states. Lo sforzo dell'essere consapevoli e del far sorgere questi stati. And then finally, the fourth noble effort is to cultivate and develop those wholesome states that have already arisen. E infine il quarto nobile sforzo è coltivare, sviluppare quegli stati mentali salutari che sono già sorti. Okay, and that's in a way describing the whole arc of our practice again. Yeah? E in un certo senso questo descrive l'intero arco della nostra pratica. Okay, moving from the hindrances to the seven factors of enlightenment. Yeah? Passare dagli impedimenti ai sette fattori di illuminazione. Okay, it's a slow process. It doesn't happen in a retreat or two retreats. È un processo lento, non avviene durante un ritiro o due ritiri. But so you keep working in that direction, right? You know in which direction to work, and you work in that direction. Si può continuare a lavorare in quella direzione. So, this is these three. The mindfulness, the investigation and the effort. This is the work. Ecco, quindi questo è il lavoro, mindfulness, l'investigazione e lo sforzo. Right? This is the work. This is the work that we do. And then upon this body of work, the other factors arise spontaneously. E al di sopra di questo corpo di lavoro, di questo insieme di lavoro, sorgono spontaneamente gli altri fattori. Okay, so you can't force those into existence. Questi non li potete forzare a esistere. Okay, you do the work. Okay, you do the work. The self-sustaining work of being mindful, supported by the effort, directing the mind to the objects of observation again and again. Quindi svolgete il lavoro di essere consapevoli, sostenuto dallo sforzo, investigando l'oggetto. And then a certain degree of purity comes into the mind, a certain degree of wholesomeness comes into the mind. E a quel punto nella mente si sviluppa un certo grado di purezza, un certo grado di salutare. And then on the ground of that work that we do, the following factors arise, and they are these. E sulla base di questo lavoro sorgono i seguenti fattori. So the joy, calm, and concentration arise in that order. La gioia, la calma e la concentrazione sorgono. Okay, so we're doing the work, and then out of this purity and wholesomeness of the mind, spontaneously joy arises. Quindi noi facciamo il lavoro e da questa purezza e da questo carattere salutare della mente nasce la gioia. So this is the fourth of the enlightenment factors. Che è il quarto. Joy. And joy can manifest manifest in several ways. There are several ways in which it manifests, and it's not so important to know what, but there's momentary joy or pervasive joy or overwhelming joy or uplifting joy, or there are several ways in which the joy can manifest. Quindi può manifestarsi in vari modi. C'è. Sì. Okay, non è così importante. Non è importante andare nei dettagli. Comunque può esserci la gioia momentanea oppure una gioia pervasiva che solleva o travolgente. Sì, esatto. So there are several ways in, but the important thing is that when joy arises in the mind, then there's a certain gladness that comes with it, a certain gladdening of the mental body. Ma la cosa importante è che quando la gioia sorge nella mente c'è una lietezza, un carattere di lietezza che pervade anche il corpo. And it may also be manifest as real lightness in the body. Può manifestarsi come leggerezza, un senso di leggerezza corporea. Sometimes you're doing walking meditation and you have the sense that you're going to float off. A volte facendo la meditazione camminata si ha la sensazione di sollevarsi nell'aria. It's really light, galleggiare. And so there's this gladness and this lightness that comes into the body and the mind. Quindi questa letizia, questa leggerezza che entrano nel corpo e nella mente. And such a mind is much more at ease with itself and with the world. È una mente molto più a suo agio con se stessa e con il mondo. And then, in such a mind, it is quite natural that the fifth enlightenment factor arises, and that is the enlightenment factor of calm. E in una mente di questo tipo è molto più facile che sorga il quinto fattore, che è la calma. So we experience calm all along our practice. It's not to say that it only arises here in this way. Sì, proviamo la calma in tutte le fasi della pratica, non sorge soltanto in questo modo. But when it arises as a in its fullness. Then it arises as its characteristic is one of non-agitation. Ma quando sorge nella sua pienezza ha questa caratteristica di non agitazione. So Sayadaw Upandita describes it as a kind of cooling of the mind. Quindi Sayadaw Upandita la descrive come un raffrescamento della mente. So it's the habitual feverishness of the mind, that habitual restlessness of the mind dies down, dies away. Quindi questa mente febbrile, abituale, svanisce, se ne va. Oh, this restlessness is no longer there. It gets, the calm swallows it up. Non c'è più l'inquietudine, la calma la inghiotte. So there's this sense of coolness, and also the residual agitation in the joy also calms, subsides. C'è un senso di freschezza e anche l'agitazione residua portata dalla gioia si calma anche quella. And so now it's more a state of contentment. Quindi è più uno stato di appagamento. Sense of deep well-being, contentment. Un senso di profondo benessere e appagamento. And so there's this contentment and this ease and calm in the mind, and then there's also a real sense of stability or stillness in the body. E nel corpo c'è anche un senso di stabilità, di tranquillità, di fermezza. So there's a feeling that you could sit undisturbed for a long time. La sensazione di poter stare seduti a lungo. So this is the calm. And then you can imagine that in such a mind, or for such a mind, becoming concentrated is also quite natural and happens spontaneously. E come potete immaginare, per una mente del genere è anche facile diventare concentrata, e quindi questo avviene spontaneamente. So this is the sixth of the enlightenment factors. Ed è il sesto fattore. So this is the enlightenment factor of concentration. La concentrazione. And the concentration manifests as a one-pointedness of mind. La concentrazione si manifesta come un carattere puntiforme della mente. One-pointedness, focalizzata su un punto. So this manifests as this one-pointedness of mind, but it has the function of gathering all the components of the mind together. Ma ha la funzione di radunare tutte le componenti della mente. All these other wholesome factors that are also present, including the mindfulness, including the effort, including the curiosity, including the joy. Tutti i fattori salutari che sono presenti. It gathers them all together. Li raccoglie, li raduna so insieme. The characteristic of concentration is non dispersal, scattered. La caratteristica della concentrazione è la non dispersività, non è dispersa, diffusa. So the mind is gathered together. This gathering together of the mind gives the mind a sense of real power. La mente è raccolta e questo raccoglimento dà alla mente un senso di vero potere. This is a powerful mind, and what I mean by this is a mind that easily penetrates into objects. È una mente potente e intendo dire che riesce a penetrare facilmente gli oggetti. So we also experience concentration along the way, and when there is concentration, you see that the penetrative power of the mindfulness is much enhanced. E anche la concentrazione la sperimentiamo lungo il cammino, e quando c'è concentrazione ci rendiamo conto che il potere della mente è molto accresciuto. C'è questo potere di penetrazione della mente. Potere di penetrazione. So the mind much easily sinks into objects, and when it easily sinks into objects, then the clear nature of the object is also readily apparent. E quando la mente entra facilmente nell'oggetto, la vera natura dell'oggetto diventa apparente. So, concentration is said to be the proximate cause for the arising of wisdom. E quindi si dice che la concentrazione sia la causa prossima del sorgere della saggezza. And that's because the mind penetrates and sees clearly the three characteristics of existence. Perché la mente penetra e vede chiaramente le tre caratteristiche dell'esistenza. So this is why also Bhante says protect your concentration, yeah? Because it really allows you to experience things in a much more profound way. Ecco perché Bhante dice proteggete la vostra concentrazione, perché vi permette di vedere le cose in maniera molto più profonda. Okay, so that is the power of the concentration. E questo è il potere della concentrazione. Now, just maybe very briefly, without going into too many details, there are two types of concentration. Brevemente, senza entrare in troppi dettagli, ci sono due tipi di concentrazione. Or, let us say there are two types of practices. Diciamo due tipi di pratiche. So there's a kind of samatha practice, and there's the vipassana practice. C'è la pratica di samatha e la pratica di vipassana. So just very briefly, so we don't confuse things. The samatha practice has as its end goal the development of deep states of concentration. La pratica di samatha ha come obiettivo finale lo sviluppo di stati di concentrazione profonda. Called the absorptions. Chiamati gli stati di assorbimento. Okay. And in samatha, the object of meditation is a conceptual object. Nella samatha, l'oggetto della meditazione è un oggetto concettuale. So it's a static object. It's a fixed object. Un oggetto statico, fisso. So it's a colored disc or an image or sometimes even the feeling of metta or the mantra. These are all objects of samatha meditation. Quindi un disco colorato, oppure un mantra, o la metta stessa. Un'immagine metta si usa per sviluppare gli assorbimenti. Quindi un oggetto fisso. So, the goal here is to attain these states of absorption, tranquility. E quindi l'obiettivo è ottenere questi stati di assorbimento, di tranquillità profonda. Vipassana is not per se interested in this. Ma la Vipassana non è interessata in questo di per sé. So Vipassana is really interested in the development of understanding. è interessata in realtà allo sviluppo della comprensione. As we said yesterday, seeing things in the light of the three characteristics clearly. Vedere le cose chiaramente alla luce delle tre caratteristiche. So the concentration that we develop in Vipassana is also a little bit different from the concentration that is developed in Samatha practice. E quindi la concentrazione che sviluppiamo nella Vipassana è un po' diversa da quella che si sviluppa nella pratica della Samatha. So first of all, in Vipassana, the objects are the momentary occurring phenomena, mind and body. Gli oggetti nella Vipassana sono i fenomeni momentaneamente che accadono momento per momento nella mente e nel corpo. Esatto. Yeah? So it's these momentary arising processes of body and mind, right? And so even the concentration that is developed in Vipassana is called momentary concentration. So the mind is momentarily absorbed in the presently arisen object. It ceases with the object and arises again with the new object. E quindi la mente è momentaneamente assorbita con l'oggetto che sorge, lo coglie e poi lo... Si cessa con la cessazione dell'oggetto e si sorge di nuovo con il nuovo oggetto. It's a momentary concentration. And the goal here is to really experience the object, the nature of the object, clearly. E l'obiettivo è proprio quello di fare esperienza della natura momentanea, chiaramente della natura momentanea dell'oggetto. Della natura vera dell'oggetto. So, okay, this is just for slight clarification. But the important thing is that the concentration penetrates, and the penetrative quality of the concentration also then leads to the unfolding of understanding. Ma la cosa importante è che la concentrazione penetra e questa penetrazione conduce al dispiegarsi della comprensione. And so this then brings us finally to the last of the enlightenment factors. E questo ci porta infine all'ultimo fattore di illuminazione. So it is the last in terms of development. È l'ultimo in termini di sviluppo. And it is also maybe the highest of these states. Ed è forse anche il più alto di questi stati, il più elevato. Okay, and because it is really rooted in clear understanding. Perché è radicato nella chiara comprensione. In wisdom. Nella saggezza. So I speak here of equanimity. Sto parlando dell'equanimità. So equanimity sometimes gets a bad reputation. Think of it as a kind of disengagement or a non-caring or. Qualche volta l'equanimità ha una cattiva reputazione, viene confusa con il disimpegno, con l'indifferenza. So very important to know that indifference is really quite different. It's rooted in delusion, in ignorance. Mentre è importante capire che l'indifferenza è diversa, perché ha le sue radici nella confusione o nell'illusione. Nell'ignoranza. It's not caring, not knowing. Significa non occuparsi di qualcosa, non conoscere qualcosa. The equanimity is rooted in a clear understanding of the nature of things. Invece l'equanimità ha le sue radici nella chiara comprensione della natura delle cose. It sees clearly that there is no way, the futility of grasping, and also sees clearly, how can I put it, the disadvantage of it. Vede chiaramente la futilità dell'aggrapparsi alle cose e anche ne vede gli svantaggi. So it sees the undesirability of it. Che non è desiderabile fare questo atteggiamento. Okay. So there is a certain degree of detachment. A certain degree of letting go. E quindi c'è una misura di stacco, di lasciare andare. But it is not disinterest. Ma non è un disinteresse. The mind is still a mind that in which equanimity is at the forefront. La mente è sempre una mente in cui l'equanimità è in primo piano. Our teacher Beate Glockner describes it as a vast open sky. E l'insegnante Beate Glockner la descrive come un grande cielo aperto, un vasto cielo. Okay, really open, really present. Che è veramente aperto e presente. Okay, and in this vast open sky all kinds of clouds pass through. In questo vasto cielo aperto passano ogni genere di nuvole. Okay, light summer clouds or heavy rain clouds. Leggere nubi estive oppure nubi cariche di pioggia. But it's okay either way. Ma in entrambi i casi vanno bene. Because the mind is not identified. Perché la mente non è identificata. It doesn't get lost in the clouds. E non si perde nelle nuvole. It doesn't take the clouds for itself. Non prende le nuvole per sé. It sees very clearly this is just transitory phenomena. E vede con chiarezza che sono solo fenomeni transitori. And it stands back and allows whatever is there to be there, to manifest. Fa un passo indietro e permette a qualsiasi cosa ci sia di manifestarsi. So a mind that is equanimous is an open mind. Quindi una mente equanime è una mente aperta. So in a way it is really exposed. In un certo senso è esposta. But even if it is exposed, it is also paradoxically protected. Ma pur essendo esposta, paradossalmente è protetta. Because there is a sense that whatever arises, it is all right. Perché c'è il senso che qualsiasi cosa sorga va bene. So there is a sense of subtle and pervasive well-being going along with the equanimity. Quindi c'è un senso di benessere sottile e pervasivo che accompagna l'equanimità. So, and the important thing is that the mind has given up its usual habitual pattern of reactivity. E la cosa importante è che la mente ha abbandonato i suoi schemi abituali di reattività. So there are two terms to describe equanimity in the Pali language. One is upeka. Quindi nella lingua pali the most common term. Il termine più comune per descrivere l'equanimità è upekkha. And the other term, little less well known, is tatra maja tata. Ma c'è anche l'altro termine meno noto, tatra maja tata. And it literally means here in the midst of all this. E letteralmente significa qui nel mezzo di tutto questo. Yeah, here in the midst of all this, right? So, not getting blown about by experience, right here in the middle of things. Quindi non una cosa che viene sviata, sbattuta di qua e di là dall'esperienza, ma è proprio qui nel mezzo delle cose. So the Buddha also talks about the 8 worldly winds. E il Buddha parla anche degli 8 venti mondani. So, and these are sets of opposites, right? So this pain and pleasure is one set. Quindi sono delle coppie di opposti, quindi dolore e piacere. There's profit and loss is another. Profitto e perdita. Praise and blame is a third one. Quindi lode e accusa, biasimo. And then fame and disrepute is the fourth. Quindi fama e discredito. And you can see how the habitual pattern of the mind is to go towards one and go away from the other continuously, right? We're just being blown about. We seek pleasure, we shy away from pain. We seek profit, we want nothing to do with loss. Mm-hmm. We want to be praised, but we feel terrible when we are blamed. We like to be thought well off, we don't like to be thought ill off. Mm-hmm. And there's this continuous swing back and forth. E quindi lo schema della mente è essere continuamente sbattuta da una parte e dall'altra tra queste coppie di opposti. Vogliamo essere considerati bene, non vogliamo essere considerati male. Cerchiamo il profitto, non vogliamo la perdita, e così via. And you can also see this in your meditation practice. E questo lo vediamo anche nella pratica di meditazione. Oh, holding on to states of calmness or pushing away unpleasant states. Ci afferriamo gli stati di calma e respingiamo gli stati spiacevoli. Softness in the body, mind is like happy, holding on to that. Se c'è un senso di morbidezza nel corpo, la mente è felice e vuole tenerlo. Hardness, pain. Se c'è dolore o rigidità, lo respingiamo. This reactivity, you see it in your practice also. It's there a lot. E quindi vedete questa reattività anche nella vostra pratica. So, grasping pleasant feelings, pushing away unpleasant feelings. Afferrare le sensazioni piacevoli e respingere quelle spiacevoli. So, after this long process, when the equanimity really becomes stable in the mind and this habitual reactivity dies away, then that is experienced as an immense relief. Quindi dopo questo lungo processo l'equanimità si stabilizza nella mente e si svanisce la reattività, questo dà una sensazione di grande sollievo. And it's an immense sense of no longer at the mercy of what is happening here. Un immenso senso di sollievo per non essere più in balia di quello che succede. So this is the state of equanimity. E questa è la condizione dell'equanimità. The highest of the states. Il più elevato degli stati. And these are the seven factors of enlightenment. E questi sono i sette fattori dell'illuminazione. And they have, as I said at the beginning, the power really to transform and purify. E come dicevo all'inizio, hanno davvero il potere di purificare e trasformare. So let me conclude by wishing that by your diligent practice you slowly bring these states to maturity. Quindi vorrei concludere augurandovi di portare lentamente questi stati a maturità attraverso una pratica diligente. And that they may then lead to liberation, through freedom. E questo possa condurvi alla liberazione, alla libertà. Vera pace e libertà. Okay. So, thank you. Thank you for listening. Thank you.